abbiamo già iniziato la fase di raccolta dati che sarà ulteriormente approfondita a breve, per arrivare a determinare, a mettere a punto quello che è il vero e proprio cervello pensante del sistema, il cosiddetto algoritmo di attivazione, ovvero sia quel software che deciderà quando attivare il sistema nei casi di incidenti, per il momento pensati per le discipline di sci alpino veloci, quindi parliamo di discesa libera, parliamo di super G e di gigante.